la mia passione per lo spettatore, ecco. Hai fatto anche delle scoperte curiose indagando e intervistando? Sì, aneddoti simpatici ce ne sono parecchi, però non voglio fare spoiler. Certo. Senti, è stato presentato al Roma Independent Film Sì, Festival. esatto, lì sì. E poi fra l'altro hanno appena avuto un ottimo successo, chiamarono diverse testate, perché comunque in Italia è difficile che esca qualcosa, un film, un documentario sul pugilato, ripeto, purtroppo uno sport che è stato un po' troppo accantonato, secondo me, mentre invece all'estero è seguitissimo, in molti paesi è seguitissimo. Potrei farti degli esempi incredibili. Senti, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Allora c'è la mia pagina Facebook Roberto Palma, la mia pagina Instagram sempre Roberto Palma e la pagina Facebook di Box Capitale. Che sarà in programmazione a partire dal 20 settembre a Roma, al nuovo Cinema Aquila. Corretto, sì. Sì, un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Palma. Roberto, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao.